versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori del 24, buon venerdì 28 di marzo, siamo qua in diretta 16:35, primi 25 secondi, vado subito al tema del giorno. Il tema del giorno è più o meno comune che vai, tasse che trovi, perché come è noto a noi tutti, con la modulazione delle aliquote delle imposte fondamentali, diciamo così, per l'autonomia finanziaria dei comuni, no? Come la TARES, e poi con le quote di pertinenza delle imposte immobiliari e poi con le addizionali, l'esperienza di noi tutti è quella di una geografia abbastanza differenziata, perché abbiamo molte volte parlato delle grandi città che sono in default, quelle che hanno ovviamente poi gli obblighi ad avere tutte le aliquote al massimo per anni e anni. Però per me, che sono un sostenitore della concorrenza fiscale, non solo tra ordinamenti ma anche all'interno dello stesso ordinamento, quindi per me che abbraccio il modello svizzero come punto di riferimento, a quel punto la sfida diventa quella di dimostrare se si può, e a quel punto come si può, a far pagare aliquote più basse, imposte più basse, a parità di offerta, a condizioni date, cioè in questi anni in cui i trasferimenti pubblici dal centro ai comuni sono fortemente diminuiti e in cui i comuni si sono trovati ad affrontare norme tutti quanti come quelle del patto di stabilità. Eppure la domanda diventa, e quindi telefonate per dirci la vostra, ma voi siete convinti che nel vostro comune le tasse che pagate rispecchino davvero tutto quello che si poteva fare oppure no? Per indurvi a qualche riflessione, abbiamo trovato oggi un'amministrazione comunale che è molto particolare, che dimostra esattamente la tesi per la quale, anche date tutte le condizioni in cui si trovano oggi i comuni ad agire, nella realtà, in condizioni analoghe, a patto di fare alcune cose, e vedremo quali, ecco che le imposte e le aliquote possono diminuire molto molto significativamente rispetto alla media di quelle praticate. Non stiamo parlando in questo caso di chi è obbligato ad averle al massimo perché sta in procedura di rientro post default o pre default, ma stiamo parlando della media e addirittura anche di alcune amministrazioni che vengono poi dipinte come virtuose. Allora, è con noi un sindaco, il sindaco di un comune nella provincia di Brescia, e il comune si chiama Pavone del Mella e il sindaco si chiama Pier Giorgio Priori. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buongiorno Oscar, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, io inizio solo con due cifre prima di cederle la parola per fare riflettere chi è a casa. Dunque, il suo comune di quanti abitanti è? 2.900 abitanti. 2.900 abitanti, quindi stiamo parlando di un comune piccolo. Allora, il sindaco, per far riflettere meglio i suoi cittadini, ha preparato delle tabelle. Premettiamo, il bilancio del comune, grazie a quello che fa il sindaco, è inattivo, parte corrente, inattivo. Ci spiegherà poi come, ma il problema è che il sindaco ha preparato delle tabelle comparate in cui per tipo di imposta, per esempio la TARES per le famiglie, per numero di componenti della famiglia, oppure la TARES per le imprese, avendo come punto di riferimento una ipotesi analoga di superficie di 200 metri quadrati per le attività commerciali, oppure di un capannone di 10.000 metri quadrati per le attività industriali, si è messo puntigliosamente a raccogliere i dati di quanto si paga nel suo comune, Pavone del Mella, e di quanto si paga nei comuni limitrofi che hanno grandezze analoghe, perché ovviamente attenti a non comparare le grandissime città con comuni di classe dimensionale più piccola, e anche con alcuni comuni virtuosi. E io per iniziare mi limito a dirvi questo: nel comune di Pavone del Mella TARES applicata alla famiglia di due componenti è di 139 euro, nei comuni limitrofi diventa di 151 euro, in alcuni comuni virtuosi, ci dirà il sindaco quali sono, diventa 197 euro. Se invece prendiamo la TARES applicata alle imprese, per un capannone industriale di 10.000 metri quadrati, a Pavone del Mello si pagano 4.100 euro. Nei comuni limitrofi del Bresciano, si paga 15.500 euro, cioè è un comune nel quale la TARES per un caprone di 10.000 metri quadrati rispetto ai comuni limitrofi, i comuni limitrofi la fanno pagare 277% in più rispetto a quello di questo comune. Ecco, questo per farvi capire qual è la forbice con cui siamo alle prese. Non stiamo parlando di differenziali di centesimi di punto, stiamo parlando di multipli pari a tre volte. Capite che a questo punto diventa molto curioso, dal mio punto di vista, capire come è possibile riuscire a praticare aliquote tanto significativamente più basse di comuni analoghi, limitrofi, di grandezza più o meno analoga. Ecco, cominciamo da questo. Come si spiega questo mistero, Sindaco Priori? Sì, innanzitutto devo sottolineare che questo lavoro non è stato fatto da me, ma da un gruppo di lavoro che ormai opera da 10 anni qui nel comune di Pavone del Mella. Si spiega perché, ad esempio, parlando di TARES, si hanno delle aliquote minime o massime secondo il tipo di attività economica, e questo viene dato direttamente dalla legge. Un comune decide secondo quello che smaltisce e secondo i costi di smaltimento e raccolta quale tariffa applicare. Fortunatamente nel 2013-2014 tutti i comuni possono essere comparati perché la TARES dà delle ben specifiche tipi di applicazione di calcoli, mentre prima i comuni calcolavano un po' ognuno secondo un proprio regolamento. Come il perché? Il perché è perché già da 10 anni fa abbiamo cominciato a metterci la faccia, ma non in senso figurato, in senso vero e proprio. Ho avuto dei consiglieri comunali che andavano cassonetto per cassonetto a vedere che tipo di rifiuti c'erano all'interno, se erano ben differenziati o se ad esempio erano un po' misti, o se ad esempio trovavamo del rifiuto industriale artigianale nel cassonetto invece dedicato agli abitanti privati. E soprattutto il controllo analitico di tutte le fatture, cioè una per una, non solo i nostri dipendenti comunali, ma anche gli amministratori si sono messi a spulciare fattura per verificare se queste erano consone a quello che speravamo. E pian piano siamo arrivati a questo livello di tassazione, che è quella minima che si può emettere per legge. Che è quella minima? Ma alcuni diranno, voi avete fatto una scelta, per così dire, magari ideologica, e in cambio naturalmente dell'aliquota minima avrete poi dovuto pesantemente, più o meno pesantemente, ma ci dica quanto, come e se, tagliare tra dipendenti, offerta di servizi e così via, perché poi questo è l'argomento che risuona sempre quando si dice, da parte di chi indica la parte bassa della forbice consentita ai comuni delle aliquote da applicare per le imposte locali, e la risposta di solito è: ho capito ragazzi, non è che possiamo tagliarvi i servizi o buttare fuori la gente. Voi come fate a stare addirittura inattivo con un prelievo così significativamente più basso, un terzo rispetto a un caprone di 10.000 metri quadrati sui comuni limitrofi al vostro? I servizi, sì, molte volte si può dire sì, le tasse basse, però vengono tagliati i servizi. No, dico che in questi anni sono stati aumentati i servizi, ad esempio è stato istituito il doposcuola, lo sportello unico per attività produttive, siamo capofila per 4 comuni, ad esempio la protezione civile, e questi sono servizi tutti in più, centro diurno per gli anziani. Però premetto, è sempre un controllo analitico, come farebbe un imprenditore nella sua azienda. Bisogna trattare i soldi come si usava, credo anni fa, ormai non si legge più neanche i nostri testi di legge, come il buon padre di famiglia. Bisogna capire che i soldi non sono di un privati, ma sono comunque della collettività. Ora, io non so immaginare quale sia stata la reazione, se ce n'è stata una, delle amministrazioni dei paesi limitrofi che lei mette così, quel gruppo di lavoro, meglio non lei, ma puntigliosamente in comparazione agli occhi dei cittadini, non solo del vostro comune, ma anche dei loro comuni. È successo qualche cosa in questi anni mentre andavate avanti facendo questa comparazione? Cioè la gente non ha iniziato a grattarsi un po' la testa e dire: ma perché dobbiamo pagare tre volte tanto per la stessa cosa? Beh, qualche voce è arrivata sicuramente anche dagli amministratori dei comuni limitrofi che mi hanno chiamato e mi hanno chiesto: ma perché ci fa risultare la Cenerentola? La risposta è stata: non lo so, noi gestiamo il nostro paese, non posso venire a gestire il tuo paese. Però è anche una questione di scelta. Parlando di TARES, la questione è quella che molti comuni stanno applicando la raccolta porta a porta. purtroppo è dimostrato, e si può vedere anche dal quaderno provinciale dei rifiuti, che il costo del porta a porta ora doppia o addirittura triplica il costo dei rifiuti. Questo sì, porta alcune percentuali di differenziata più alta, ad esempio il 70%, però nei Bonamella non è messo male, abbiamo un 54% di differenziata essendo ancora cassonetto. Ora, noi adesso abbiamo i 60 secondi di informazione stradale obbligatoria, ma le faccio prima la domanda, in maniera che così poi ci pensa un secondo per rispondermi. Perché voi avete, rispetto al dato della provincia di Brescia, delle entrate correnti pro capite di 575,5 euro pro capite, mentre il dato provinciale è di 831 euro, e quindi avete una differenza del 30,8% di entrate pro capite in meno. E naturalmente lo stesso dato avete però anche nella spesa corrente pro capite rispetto ai vostri cittadini del comune, perché la spesa corrente pro capite è di 580 euro pro capite e il dato provinciale è di 818 euro, con una differenza del 29%. Quindi io la domanda che a questo punto le faccio, però con queste cifre alla mano, è davvero così che col 29% di spesa pro capite in meno i servizi offerti sono paragonabili, se non di standard qualitativo superiore, come ci dice, rispetto agli altri comuni, e quindi c'è un margine di potenziale incisione nella spesa corrente di questo ordine di grandezza a cose date, cioè al di là di riforme legislative nuove e diverse, di maggiori trasferimenti e così via, perché il 30% è veramente una infinità, non solo per i contribuenti, ma per quantità di spesa risparmiata? Allora, la domanda è legittima, noi non stiamo facendo uno spot elettorale, lo dico a chi ci sta mandando i messaggi, tant'è che non vi abbiamo detto lista civica, non lista civica, partito, il problema sono i numeri e capire che cosa c'è dietro. Però adesso strada. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16.48 e alcuni mandano messaggi tipo: ma guardi che in Svizzera è normale. E a me lo dite, figuratevi, io sono un fautore del sistema svizzero. Solo che non è così diffusa la convinzione nel nostro paese, a differenza che in Svizzera, che si possano ottenere risultati tanto significativi. Apposta ci siamo scelti un'amministrazione comunale, ripeto, che ha come entrate correnti pro capite il 30,8% in meno rispetto a quello dei comuni della provincia in cui sta, la provincia di Brescia, e tentiamo di capire quindi come e se sia possibile realizzare un minore aggravio d'imposta, una pressione fiscale più bassa, per quella locale stiamo parlando, a fronte di una spesa pro capite che anch'essa è inferiore al 30%, e che cosa succede se hanno ragione coloro che dicono: ma a quel punto significa tagliare tutto, si entra nel darwinismo, la legge della giungla, non ci sono i pasti per gli anziani, i servizi di asilo nido, eccetera eccetera eccetera. Questa diventa la domanda. Però, come vedete, il fatto è che è possibile anche in Italia. E tra l'altro alcuni di voi, per esempio Lorenzo, ci dicono: anch'io abito in un paese che è inattivo, restituisce alle aliquote minime e davvero posso dire anch'io, ci dice Lorenzo, che dà tutti i servizi. Naturalmente il problema è la qualità e l'impegno del sindaco, che se ci mette la testa e considera che la diminuzione e l'ottimizzazione della spesa rispetto alle entrate sia un obiettivo prioritario da percorrere. Allora, gli avevo fatto una domanda al sindaco di Pavone del Mella: col 30% pro capite di spesa in meno rispetto ai comuni della provincia, questo 30% in che cosa si è sostanziato nei suoi anni di sindaco? Cioè, alla fine i risparmi dove li ha fatti? Controllando la spesa corrente. Dal 2004, quando abbiamo iniziato il mandato amministrativo, la spesa corrente è cresciuta dello 0,59%, a fronte comunque di aumenti di aliquota, ad esempio il gasolio per il trasporto pubblico e molte altre aliquote che sono cresciute enormemente. Cioè, pensiamo solo al gasolio, che al tempo del 2004 era, se non sbaglio, 96 centesimi, adesso è a 1,7, 1,60, cioè delle crescite spaventose. Però volevo sottolineare che comunque anche i servizi dati sono, credo, di buona qualità, ma non detto da me, anche perché vediamo i dati riscontrati. Ad esempio, i pasti a domicilio per gli anziani sono cresciuti da 11 pasti, purtroppo cifre piccole perché comunque il paese è piccolo, a 20 pasti, nel 2004 costavano 3,80 euro a pasto, mentre oggi nel 2014 sono 4,50 euro, e la qualità è la stessa, perché la cucina proviene da una cucina di un istituto che fornisce altri 5-6 paesi nella Senta, zona. Ma nel frattempo, come innumerevoli volte abbiamo documentato anche dando voce ai rappresentanti dell'ANCI e così via, questi anni sono stati anni in cui la quota di trasferimenti pubblici centrali ai bilanci dei comuni è significativamente diminuita per via delle necessità del rientro della finanza pubblica nazionale. Se lei fa un paragone, nel 2004, quando ha assunto l'incarico, in percentuale quant'era il trasferimento pubblico e quanto è sceso adesso nel 2013? Le dico che ho un dato che siamo andati a rivedere, ad esempio negli ultimi 10 anni i trasferimenti di regione e provincia è stato coprivano circa il 60% delle spese del comune, nel 2014 coprono il 20% delle spese del comune. Dal 60% al 20%. Sì. E ciò malgrado è possibile fare? Quadrare i conti e non tagliare il tutto con una pressione fiscale del 30% in meno. Sì, ad esempio quest'anno chiudiamo il bilancio con 650.000 euro di avanzo che purtroppo per il patto di stabilità non possiamo spendere. Questa è una delle ragioni ricorrenti tra i suoi colleghi sindaci che dicono noi non siamo affatto incentivati ad andare in avanzo e a essere virtuosi, perché tanto poi non possiamo riallocare la posta rispetto a quella impegnata e quindi non ce ne possiamo fare nulla, è vero? Sì, purtroppo sì. Anche perché comunque in un paese così piccolo 650.000 euro di avanzo si potrebbero fare un sacco di lavori pubblici, strade, marciapiedi e tutto il resto, e naturalmente fare anche lavorare le imprese edili visto il periodo tragico per questo settore della zona. Quando lei dice abbiamo fatto un controllo sistematico fattura per fattura di tutta la spesa corrente, significa che avete nel farlo avete incontrato delle controparti private, fornitori e così via, in cui quando magari gli contestavate i prezzi precedenti, che tipo di atteggiamento avete trovato? Le dico che senza fare nomi dell'azienda, proprio nel 2005, cominciando a controllare quello che era la raccolta dei rifiuti, tramite il mio ex vice sindaco e l'allora anche consigliere, abbiamo incontrato l'azienda e gli abbiamo contestato 50.000 euro di fatture che poi sono state restituite al comune, perché poi non potevamo andare a ritroso più di tanti anni, ma però 50.000 euro ci sono stati restituiti, purtroppo l'azienda non poteva dimostrare i pesi. Cioè siete riusciti a farli restituire senza intraprendere alcuna azione? Sì, perché comunque era dimostrabilissimo, i pesi non erano dimostrabili da parte dell'azienda dei rifiuti conferiti. Pertanto... Posso fare una domanda? Lei nella vita professionale, insomma, di mestiere, che cosa fa oltre il sindaco? Che... Sono un libero professionista, faccio il geometra, però conta molto la squadra, perché tutte le professionalità sono all'interno di questa squadra, tra geometri, tra ragionieri, chi si occupa della parte tecnica, chi si occupa della parte finanziaria. E l'effetto di tutto questo, perché uno poi può immaginare che insomma, di fronte a una pressione fiscale di questo tipo, stiamo parlando di un'area che prima della crisi era comunque a elevata concentrazione industriale e così via, la crisi ha morso pesantemente, però insomma stiamo parlando di una parte d'Italia in cui l'intensità di attività economica e imprenditoriale è molto alta. Questa cosa è valsa anche, per così dire, ad accrescere il coefficiente di PIL sull'iniziativa economica? C'è gente che ha iniziato a farsi il conto da voi avere un capannone costa così meno, quindi tanto vale tentare di tenerlo aperto invece che chiuderlo o venderlo, piuttosto che altrove? C'è stato un fenomeno quindi di crescita aggiuntiva per questo oppure no? Non so se è dipeso naturalmente da quello che è la gestione finanziaria del comune, però abbiamo le 4 aziende principali che sinceramente hanno una buona attività economica ed hanno assunto anche personale. La maggiore attività economica che abbiamo qui nella metalmeccanica entro la fine del 2015-2014. E quindi male non ha fatto, insomma, la pressione è bassa. Antonio da Caserta, rapidamente, la sua opinione? La mia opinione è che il 30% è reale. Ah, il 30% è reale. È una serie di motivi. Sì. Primo è che nelle piccole spese di manutenzione è sufficiente mettere in concorrenza 2 o 3 imprese con preventivi diversi e scegliere la migliore nell'interesse dei cittadini. No, ma questo mi rincuora che i nostri ascoltatori dicano che il 30% ci credono. E allora però pretendiamolo il 30% di spesa di tasse in meno a parità di condizioni. Continuate con Radio 24, viva il sindaco del comune di Pavone di Mella e appuntamento con me a lunedì.